Sono le 7:30 minuti primi da Pane, Burro, Rock and Roll. L'inizio della seconda parte della puntata 151. Ehi! Ragazzi, mi serve una strombazzata per l'esame di Taekwondo di stasera. Passo a cintura verde. Sarà un esame rock? E beh, prima mi gaso con i Motley Crue e gli Skid Row. Che rocker che abbiamo all'ascolto, ragazzi. Ma chi ve la fa voi? Ciao Spritz! Saluti a quello, ad Alessandra, Alessandro, quello di matematica discreta. Ma se il Natale è rock, la Befana sarà metal? Se lo chiede Andrea da Firenze. Ariele, trombetta, ti prego. Pendolare da Legnano City Rockers a Milano. Traffico a go-go, buon Natale rock. Quindi senti dal casello in avanti. Hai sempre la voce sexy, grazie. Come farò in questi giorni senza di voi? Voglio il calendario. Allora ricordo, stasera per gli amici toscani all'Ippodromo a Firenze e domani sera all'Alcatraz di Milano, dai. Se no passate a trovarci qui in radio voi di Milano. Buon Natale crepuscolare a tutta Rock FM, Marco da Cinisello. Ho appena comprato il mio primo computer, ovviamente il primo sito da visitare era quello della vostra radio, guardando le playlist. Bravo! Vedi, avrebbe potuto andare a guardare un sito porno, invece è andato a vedere radiorockfm.com, ma imparerai, tranquillo. Ha fatto la battuta. Di dicembre, ultima puntata di Pane, Burro, Rock and Roll prima di chissà quante ferie godutis. Non pianga, ma vi ho detto che il contratto ce lo rinnovano. È sicuro? No, però non si sa mai, uno spera sempre in bene, maestro, non faccia così. Al massimo, sa cosa le dico? Tagliamo i saccorizi e smezziamo. Ah, per 60-40. Ah, mi fa male, speriamo 70-30? Sì, vada per il 70. Ma speriamo non abbia sentito. No, non può aver sentito, è al di là del vetro, senta. È solo al di là del vetro. Il vetro è ermetico, non si può sentire. Però ha fatto una compleanni faccia. Del giorno! Compleanni. Tutto a posto, Isacco, stai tranquillo. Compleanni. Nasceva il 21 dicembre del 1931 quella vecchia cicciona di Moira Orfei. Ma come l'ha maltrattata? È una vecchia cicciona, no? Ma no, ma lei è affezionato a Moira? A chi? A quell'anziana ciabatta? Esattamente. Stavo scherzando. Moira, stiamo scherzando. Ovviamente una grande rocca. Siamo due stupidoni. Con i suoi meravigliosi posteroni che tappezzano le città italiane in fluo. Grandissima metafora. Sa che io glieli invidio sempre i cabelloni di Moira Orfei in fluo. Da adesso anch'io inizierò ad invidiarli. Moira, siamo due scemoni, perdonaci. Nasceva nel 1940, oggi il 21 di dicembre, un genio del rock and roll, Frank Zappa. Zappa, l'italo-americano più famoso del secondo dopoguerra, non lo so, volevo dire qualcosa di eclatante. È venuto abbastanza bene. Sì, sì, complimenti. Insomma. Non avrei saputo dirla meglio. Era He had her Mendocino Bino. È una citazione. Sì, ma per dare un'idea della mia cultura. Certo. Enciclopedica. Perfetto. Nasceva nel 1948 Samuel L. Jackson, attore statunitense. Lo ricorda in qualche film? Ha detto attore? Statunitense. Molto bene, lo ricordo in Fa la cosa giusta. Do the right thing. Ma bravissimo. Spike Lee, che bello. Pulp Fiction. Certo, di Tarantino. Die Hard, duri a morire. E ricorderei sempre di Tarantino Jackie Brown, bellissimo. Ah, io non l'ho visto. No, molto carino, maestro. Glielo presto in videocassetta quando finiamo la trasmissione. Beh, che non sia però come l'ultima volta che doveva prestarmi 900. C'era un film, c'era Giovannona a coscia lunga. Adesso io non vorrei farlo sapere a tutti. Maestro, possiamo non parlare dei cazzi miei e invece fare il compleanno a Martufello? Nasceva nel... Le piace la Borgarina? Parlare dei cazzi suoi. Sinceramente. No, facciamo gli auguri a Martufello, un collega. Facciamo, un comico. Facciamo gli auguri a Martufello. Martufello. Nasceva nel 51. Mi citi subito un pezzo di Martufello. Di Biunzo. È quello lì? Di Biunzo. Bello, che ride, ragazzi. Beh, bravo. Martufello, una colonna dell'umorismo italiano. Di Biunzo. Quasi quasi preferisco la Orfei. Ottima scelta. Telefoniamo a Moira. Pronto, Moira? Le vogliamo bene, Moira. E me, che c'è? What a drag it is. getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. Say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside. The same, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for a shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of Stones, the Stones, the Mother's Little Helper. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way. Allora, dicevo, mi sarebbe piaciuto, visto che dalle 9 in avanti ci saranno i telefoni aperti con tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Rock FM. Ricordo il numero 0267 09 132. Mi faceva piacere invece all'interno di Pane, Burro e Rock and Roll salutare i fedelissimi, i corrispondenti di Pane, Burro e Rock and Roll. Parto da Carlo. Ciao, eccomi qua. Auguroni, Carlo. Bene. Auguri anche a voi. Carlo, tabaccheria di Milano. Devo salutare invece la tabaccaia di Firenze, che punta alla concorrenza, Carlo. Sì, ma oltretutto Firenze porta benissimo, perché guarda, è una città veramente fortunata. Ah sì? Escono bene i numeri. Sì, sì, i numeri in quella città veramente resta vanno alla linea. Grande. Scusa, intanto rispondevo anche al telefono io. No, la ringrazio, ci ha mandato addirittura, adesso non ce l'ho sotto mano, il profilo di Nostradamus mio e di Frick. Ah, roba magica che fa quasi paura. Senti, Carla non è lì da quelle parti, eh? No, stamattina non si è vista, stamattina le vincite sono state veramente scarse, quindi se non si vince non passa lì. Ma va, no, se no lei alle 6:30 è già puntuale qua davanti a aspettare che tiro su la Claire, per incassare. Vabbè, salutiamo anche la sciura Carla, magari dopo provo a cercare anche lei. Sì, dai che la becchi. Nel momento stesso in cui ho pensato di voler salutare tutti i collaboratori mi sono accorto che siete troppi, quindi cercherò di fare in fretta. Volevi salutare, fai i saluti, hai una poesia di Natale? Mi viene in mente quest'altra cosa. Se c'è qualche bambino all'ascolto che ha una poesia di Natale farebbe molto. No, è troppo. Io purtroppo non saprei su cosa consigliarti in questo senso. Io ho molti bambini, sai benissimo che anche oltretutto insegno in piscina, quindi lì ho veramente tanti bambini. Adesso non so, dovrò fargli sentire stasera il jingle. Secondo te è rock o è poco rock mandare la poesia del bambino? Ma sì, ci può stare, però insomma, devo chiedere a Tino, devo chiedere al tassista, che è lui, esatto, quello che gestisce il Natale peggio di tutti, quindi vediamo con lui. Vabbè, oh Carlo, nel 2008 sbanchiamo tutto, Sì, dai, la promessa è questa. mi auguro veramente di riuscire a beccare qualcosa. Io sto proponendo alcuni numeri, sai che benissimo che avevi proposto tu martedì, quindi proviamo, andiamo su quella scia, vediamo un po'. Vai, dalli. Sono il 12, il 44 e il 66. Bene, vi ricordo che non usciranno mai perché sono numeri rock. Ormai però se come martedì sono usciti, mannaggia, non ricordarmelo. Qualcuno qua veramente ha fatto i soldi. Carlo, cambiamo discorso. Esatto. Auguroni, buone ferie, queste cose anche qui. Mi viene stupido dirle, però è così. Buon Natale, però rock, ecco. Esatto. Salutami Carla se non la sentiamo, Senz'altro, auguri a tutti. Ciao. Come here, baby. You know you drive me up a wall the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. I go crazy. Momento pane, burro, rock and roll, reparto miele, reparto zucchero per la vostra colazione. Qui c'è l'Ariele, la squadra di pane, burro e rock and roll in questa puntata 151 sui Genesis, come direbbe Frecantoni, nella quale insomma ci facciamo i saluti, quelle robe che si fanno quando si avvicina il Natale. Ricordo, apriremo i telefoni a tutti dalle 9 in avanti, fino alle 9 volevo salutare i collaboratori di Pane, Burro e Rock and Roll, ricordando a tutti gli altri all'ascolto che è semplice diventare collaboratori di Pane, Burro e Rock and Roll, basta scriverci via SMS e proporsi. Tino il tassista! Ciao, presente. Tino. Ciao. Allora, Tino, in queste due settimane, ma anche prima, perché avevamo attaccato prima, tu ti sei occupato delle luminarie, del Natale e di quant'altro, esatto, essendo tu un forte appassionato di questa festività. Ah, guarda, io non vedo l'ora che arrivi, così poi è passata. Così. Tra l'altro sappi già che gennaio è tutto speciale, non le hanno ancora tolte. Ah, benissimo, bene. Oppure lo facciamo a febbraio? No, beh, cominciamo pure anche a gennaio. Secondo me bisogna attaccare con l'ansia già a gennaio, non l'hanno ancora tolte. Esatto. Non le hanno ancora tolte. Tu sai che io sono on the road, quindi non c'è problema. Allora, non hai ancora attaccato il servizio? No, ancora poco. Abbiamo scoperto in questi ultimi giorni che, cioè, sì, tipo i tassisti ascoltano solo Rock FM. Sei stato tu a sparger la voce? Beh, io faccio il mio mestiere. Tu fai il tuo. Nel senso di spargere la voce, quello è il mio vero lavoro. No, abbiamo scoperto che Milano è bella sintonizzata su Rock FM, nei tassi, ci fa piacere. Insomma. Sì, è vero. Sì. Tu sparci la voce e salutiamo tutta la categoria, visto che abbiamo in diretta te. Allora, sì, vuoi fare gli auguri, quelle cose classiche? Ma assolutamente no, ma ecco, stai scherzando. Bravo. Dico solo buon Natale a tutti, però molto rock. Ok, sapevo di potermi fidare di te. Come sapevo che devo chiedere consiglio, perché sennò qua rischiamo di sbagliare, ci linciano. Grazie. Mandare un bambino, cioè la classica poesia di Natale, lanciamo l'appello, sì, di cercare un bambino per oggi o no? Sì, ti sentivo anche prima, assolutamente sì. Lo facciamo? Secondo me sì, anche perché i bambini sono quelli che veramente il Natale se lo godono. Oh. Quindi secondo me. Allora lanciamo l'appello, guarda, genitori che avete il cattivo gusto di far ascoltare pane, burro e rock and roll ai vostri figli, se c'è il vostro bambino che sa una poesia, già magari un po' di quella un po' più... cioè, non proprio quella, quella un po' più... Esatto. Noi ci siamo, che tanto ci capiamo a gesti con i radioascoltatori. Se posso dirti una cosa, sì, io secondo me io ce l'avrei anche quel bambino lì, anzi quella bambina lì. È una mia amica, si chiama Silvia e ha 7 anni. Però io spero, lancio questo appello, ciao Silvia. Oh Silvia, se sei all'ascolto, intanto salutiamo Peo Taxi, che dice è vero, ascoltiamo solo Rock FM. Va bene, insomma. E un altro che scrive sono gonfio come una zucchina, ma non c'entra niente. Però i tassisti, secondo me, i miei colleghi dovrebbero metterlo l'adesivino sulla macchina, così quando siamo in giro ci vediamo e ci facciamo ciao ciao con la macchina. Hai ragione, come fanno i motociclisti con le ditine che si salutano. Esatto, e noi ci facciamo corna al cielo e fa tutto rock and roll. Va bene Tino. Senti, sì, auguroni, ci sentiamo poi per gennaio, ci inventeremo qualcosa di nuovo. Allora, noi abbiamo lanciato l'appello a Silvia. Esatto. Giusto? Però giusto, qualsiasi bambino vuole raccontare, vuole cantare una canzone, insomma, per dare un po' di spirito natalizio a questo delirio, lo accettiamo volentieri. Perfetto. Ciao caro, grazie, a presto. Un abbraccio a tutti, buon Natale. Ciao. Però rock. Ciao. Però molto. Il centro commerciale Duse Giant Center vi ricorda che nel reparto bimbi potrete visitare l'inimitabile presepe vivente. Accorrete numerosi. Ho detto faccio tutto, ma il bue no. Beh, e io cosa dovrei dire? Sono l'asinello, Ariel. Mi tocca fare l'asinello. Questa storia di dover mangiare la paglia, ma dove sta scritta? Non dovevamo stare fermi? Sì, ma ci hanno detto deve essere realistico. Dovete far finta, non si deve vedere. Zitto, la... Frick, sta arrivando uno, mangia la paglia. Erba, fumo moffo, erba. Non possiamo parlare, siamo un presepe vivente. Erba, fumo moffo, dai, non erba, è paglia, stiamo mangiando paglia. Ragazzi, c'è dell'ottima erba, dai, io so che a voi piace l'erba. Che cazzo dice questa Frick, amica tua? Un deca, no, mai vista, mai vista. Dai, Frick, un deca lo vuoi, ma che roba buona, questa è erba. Magari avessi un deca, io solo della paglia. Solo della paglia. Un 5, dai, un lasciaci 5, stare, dai, che arriva il direttore. Zitta! Lei, asino, si qualifichi. Beh, mi ha già qualificato lei, direttore. Lo so, come si chiama? Il mio nome è Frick. Cosa nasconde? Cos'ha lì? Ma guardi, questa è paglia. No, è la paglia che mangiamo. No, guardi. Questa è marijuana. Guardi. Questa è marijuana. Capisco che tutti gli indizi sono contro di me, ma le assicuro non è colpa mia. C'era qua una signorina che ha lasciato il pacchetto. Quella che è andata via. Sì, sì, va bene, va bene. Io dovrei crederci. La verità, direttore, io non metterei mai. No, non, guardi, io non metterei. Chiamiamo mai la questura, vediamo se la pensano anche loro così. Guardi, io. Ma. Ariel, fai qualcosa!